Paesaggi da ascoltare. Voci, suoni e storie dalle terre trentine. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Sara Maino. Gentili ascoltatrici ed ascoltatori, buon pomeriggio. Siamo giunti alla 12ª puntata di questo programma. Anche oggi sarò la vostra guida nei paesaggi di storie e di suoni dell'Alta Vallagarina. Parleremo ancora del progetto Portobeseno, dalla cui biblioteca digitale online sono tratti i file sonori che ascolterete. Qui c'era un'altra piazza, sapete, più movimentata. Trattori, macchine, gente che andava a piedi o in bicicletta, non ce n'erano macchine. Allora, c'era invece una bella rosa, la cominciava da là, guarda, dove c'è quel primo consola. E lì la veniva da là, perché te vedi che è la pare là del Domenico. Il cancello, là è la rosa, l'ha chiuso il cancello, dopo l'ha passata la strada e lei è venuta qua. Allora lei era aperta. E era comoda, lì era in mezzo per lavare più bene, perché non era le lavatrici allora. No? Da 4 anni il progetto Portobeseno organizza laboratori rivolti ai bambini e alle bambine delle scuole primarie di Besenello, Cagliano e Volano, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina, durante i quali gli allievi incontrano le persone anziane nei luoghi significativi della comunità. Le testimonianze vengono raccolte dagli allievi stessi, in un clima disteso e stimolante, con la massima partecipazione degli insegnanti, dei bambini e dei testimoni narranti. Sono storie caratterizzanti l'Alta Vallagarina, raccontata dalla viva voce dei suoi abitanti e interpretate in seguito dai bambini con disegni e componimenti letterari. I laboratori tengono in grande considerazione l'aspetto sonoro della relazione con le persone e l'ambiente. Dalla memoria orale, attraverso cui si esprime il testimone narrante, ai suoni del paesaggio. Passeggiate sonore ed esperienze sensoriali mirate, infatti, sono strumenti propedeutici per riavvicinare gli allievi alla dimensione naturale del paesaggio ed allenare la loro attenzione, la concentrazione e l'ascolto. Mi sentivo storno. E sentivo l'acqua dentro di me, un po', cioè sentivo tutta l'acqua dentro, com'è. Il suono lo sentivo molto più forte e la sentivo meglio la cascata. Ti senti più libero e più rilassato. Senti il rumore molto più forte e sembra che sei lì vicino tanto. Sentivo un rumore più forte e sembrava che l'acqua mi cadesse addosso. Mi sono rilassata. Perché lei ha questo interesse dell'acqua? Ho l'interesse dell'acqua prima di tutto perché un attimino mi sento ecologo. Mi piace l'acqua e mi piace il Rio Cavallo. Secondo punto, perché i miei genitori avevano un mulino. Ho portato avanti anch'io il mulino fino al 1990 e con orgoglio devo dire che il mio mulino, fino che ha lavorato, si adoperava l'acqua del Rio Cavallo per farlo girare, per far macinare. E mi è venuta questa passione. E in contemporanea sono affezionato al Rio Cavallo e se riesco a recepire, a sapere qualche notizia, qualche novità, vedo di tenermela, di acquisirla. Ci tengo anche a tenerlo curato, il Rio Cavallo, perché vedere come un mese e mezzo fa, che nel Rio Cavallo scendeva l'acqua totalmente sporca, inquinata, questo mi ha fatto molto, ma molto dispiacere. Quanti anni hai scoperto che ti piace l'acqua? Come? sono sempre stato appassionato dell'acqua. Anzi, devo dirti che una volta un ingegnere mi aveva proposto, parlo quando andavo alle medie a Rovereto, mi aveva proposto, un ingegnere anziano devo dire, di continuare a studiare ingegneria idraulica, che non ho fatto, malauguratamente. E dov'è che era il tuo mulino? Allora, il mio mulino nel paese di Cagliano, se hai presente dove c'è il distributore, sul bivio, sulla strada di Folgaria, la terza casa, quella casa alta, metà gialla e metà bianca, lì avevo il mulino. Se fai attenzione, all'interno del mio cancello, vedi, ho messo lì esposte, come ricordo, ancora le vecchie macine di pietra che servivano per schiacciare il grano, e la pila, è il suo nome vero, è un sasso scavato all'interno, che serviva per mondare l'orzo, anche il riso, però col riso è un'altra lavorazione. Quella lì era esclusivamente per mondare l'orzo. Tutti gli incontri tra testimoni e studenti vengono documentati, raccolti ed archiviati nel portale internet di Porto Beseno, con una sezione specialmente dedicata alle storie dell'Alta Vallagarina. Nel sito internet si trovano diverse interviste narrative, fotografie, suoni ambientali, mappe storiche e contemporanee, racconti e video. La storia che avete appena ascoltato è quella di un signore appassionato del Rio Cavallo, il torrente che da Folgaria scorre lungo Cagliano e si getta nell'Adige. Con i bambini l'abbiamo percorso tutto, il torrente. L'abbiamo esplorato ed ascoltato. Eccoci finalmente al vecchio porto con un altro testimone. Siamo sulle rive del grande fiume, l'Adige. Mi sono Zamboni Carlo, sono nato qua, che era un maso vecchio di gente. Sento che partiva le zattere. A me era in ferrovia, ero qua alla stazione. Fa 5 anni qua, dopo 10 a Serravalle, e 5 a Trento, stazione di Trento. Poi da sempre dito al porto. Perché siccome partiva l'aghera, la barca che ne va qua e là, no? Perché c'era un po' di campagna di là, un po' di qua, che era tu campagna del Baron Moll, e era al di sotto, invece era del Conte Tratto, il Barone di Castella, no? Qua era la strada che veniva su dalla Cisa, là, e veniva su con i carri diretti. Dopo li ha depositati in via delle motte lì, perché diceva le motte causa che erano queste motte di legname, le piante. No? Beh, del 14 qua erano tutte le baracche, i depositi di munizioni che partivano per Kerle, Folgaria, eccetera. L'argine del fiume, per esempio? No, sempre uguale. Sempre uguale? Sì. E lo teneva bel pulito, l'inverno che ne arrivo a regolare i sassi che era in banchina lì sotto, e lo teneva, insomma, sempre bel pulito, i tomi li seguiva tutti, era bel netto, insomma. Dopo è stato tutto abbandonato. Era una roba dei contadini, ne ha qua e là con il boa e il cardice, cioè, no? Però dopo che si annegava i finanzieri, che sono i finanzieri che ne ha via la Masera Tabacchi al di là, e erano 5, e era l'Ades come adesso, un po' più grosso forse anche. E i miei che le va dite, stai attenti perché l'Ades è pericoloso. Ah, siamo barcaioli là di là. E abbiamo messo su e ha dato massa acqua alla barca, quando gli sta in metà alla sua di zoo. E si teneva tutti in tengroppo là su e zoo, cioè, è sparito. Allora li ha tirati via la barca per non fare il giro, chi lo che è più comodo, capisci? Gli arriva qua col treno stazione, c'è la barca e era subito via. Passava su tanta legna allora e noi eravamo sempre su che tirava fuori legna. Vabbè, che aveva l'ancora, spag da 50 metri, buttava dentro tirava fuori, bisognava correre dritto perché la forza no, non è che l'avevo fuori subito, no. Devo fare una corsa. Mi metteva l'elastico invece che farlo intorno alla mamma, spac, era l'elastico, eventualmente si rompeva l'elastico. Ah, si lo tenevi dentro. Era pericoloso, sì. Un pezzo di legno, vedi? Sempre, sempre, anche noi quando ero piccolo, sempre attaccai all'acqua, il sabbione, sai che sabbione tutte le zia ste. Ah, ne veniva della roba i pezzi di la via. Partiva lassù, dopo veniva in fuori, veniva qua. Come ti facevate? C'era una corrente, cioè, a nuotare, vai via. Anche l'acqua, la corrente è comoda anche. Qua era un scivolo che ne va su fino all'acqua. Era l'arca anche, no? Partiva da lì e fin là. E ne va su proprio seguente, fino all'acqua. Comodo anche per andare su con i carri, con le bestie. Ecco che era una corda attaccata da qua, un palo, che era un pilastro qui, cosa che era. E uno al di là, l'ha attaccata e ne va via di là. Era libera, quando, che per non venire qua, gli chiedeva acqua alla barca e la veniva qua da sola. Che metteva magari mezz'ora a arrivare a fuori, perché dopo l'ultimo tocco che metteva di più. Però il tempo allora che non aveva. Che noi c'è, da voce c'erano sempre qua, a scuola, e dopo venivano qua, zugavano qua, insomma, che era anche un canale di acqua, che adesso passa sotto e va fuori là. Veniva su più di spesso che adesso, perché adesso con tutte le dighe che c'è l'acqua, hai voglia? Noi non so, perché forse siamo nati qui e paura, i mega sempre ogni tanto ci ameva, però eravamo abituati, basta. L'acqua da bere la avevamo nel pozzo, profondo 7 metri, 7 e mezzo, e tiravamo sull'acqua. E l'inverno, siccome che il fiume diventa magro, si asciugava anche il pozzo, e allora doveva andare in piazza a togliere l'acqua. O con i ceci o con un botte selga, aveva su una barella e ne aveva 50 litri, un etoitro alla volta, per far da mangiare. Quella che avete ascoltato era la storia di un signore che ha sempre vissuto a contatto del fiume. Questa parte è molto bella perché c'è il Rio Cavallo che si unisce con l'Adige e vediamo veramente le due correnti, una molto lenta e l'Adige velocissimo. Diverse installazioni multimediali create nel corso degli anni sono lo strumento operativo, tangibile ed immediato per restituire agli abitanti le memorie territoriali che Portobeseno ha raccolto nel tempo. Attraverso le installazioni multimediali, le testimonianze delle persone e le creazioni degli allievi che arricchiscono il panorama delle storie raccolte rientrano in circolazione nel tessuto sociale. Noi crediamo che le memorie narrate, con il proprio sfondo sonoro, le caratteristiche idiomatiche, le sfumature timbriche e le emozioni percepibili all'orecchio, siano in grado di muovere delle corde profonde nell'ascoltatore, di coinvolgere le persone, di portare riflessioni e di accrescere la consapevolezza del nostro percorso umano. Le foglie qua si facevano i materassi. Lo sapevate, no? No. Allora, con questa puntata poveri. Si chiudono qui i laboratori di Portobeseno. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stessa ora, stessa rete, per l'ultima puntata di questo programma. Un saluto da Sara Maino e Stefano Uccia in regia. Avete ascoltato Paesaggi da ascoltare, voci, suoni e storie dalle terre trentine. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Sara Maino.